così l'Agostino. Ma che ne sai? Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Buongiorno. Se vuoi scrivere a Gigi, oppure mandare una dedica, o che ne so, segnati il seguente numerino. SMS 333 64 67 662. Siamo aperti 24 ore al giorno, a vostra disposizione. Ma che ne sai? Sabato sera, questo qua, 19 maggio 2007, ore 22, discoteca 24.000 baci, Latina, suono io, Gigi D'Agostino, oh. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Lo studio delle cause. Non preoccuparti. Citroën presenta la nuova C2 VTS Super Sprint, la versione soft tuning di C2 VTS con motore 1.6 16 valvole da 125 cavalli, marmitta sportiva a doppia uscita, fari posteriori trasparenti, cerchi in lega bianchi con chevron rosso, strisce adesive bianche con logo e battitacco personalizzati, interni in tessuto sportivo e pedaliera in alluminio, volante in pelle. Nuova Citroën C2 VTS Super Sprint. Se stai già sudando per l'emozione, non preoccuparti, c'è il climatizzatore incluso. C2 Fast for You. Scopri il resto della gamma C2 da 7.950 euro. Scade il 31 maggio. Da 9 anni ho dei ricordi bellissimi con la tua musica come colonna sonora e ho incontrato il mio amore Claudio con l'amour toujours. Ti amo Claudio. Simona da Torino. Vorrei dedicare l'amour toujours a Emanuela e dirle che l'amo ogni giorno di più. Andre 206. L'amour toujours a Mattia. Gli voglio un mondo di bene. Giulia. Dedico l'amour toujours a Manuela, dicendole che non è mai svanito l'amore per lei. Dimmi da Lissone. Sono Dana da Signa. Volevo ascoltare l'amour toujours e dire che molte volte ciò che desideri veramente non è mai semplice come sembra. Un bacio a tutti i miei amici a San Miniato. Sono Prosecchina 84 del forum gigidagostino.com. Vorrei dedicare l'amour toujours ai miei gigini fratellini, perché grazie all'amore che proviamo per te siamo così uniti. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you. Someday you'll be my baby and we'll fly away and I'll fly with you. I'll fly with you.

sognando, possiamo volare. Gigi D'Agostino, attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Percorrendo un sentiero fatto di musica e pensiero.